La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Vi siete lavati le mani? Sì. Avete messo la maglia di lana? Benissimo. Sì. Vi siete pettinati? Chi può naturalmente lo faccia, chi ormai non può più non lo fa. Perché oggi la puntata della bella estate è dedicata ai bravi ragazzi, ai buoni comportamenti, infatti si chiama una vacanza per bene, ovvero come andavano in vacanza i nostri zii, segnatamente le zie, e come dovremmo andarci in vacanza noi. Perché ieri in quella specie di farsa che ho fatto della finta telefonata del finto ospite ho raccontato quella brutta cosa che ho visto in metropolitana, ovvero il tipo col sombrero enorme che fra l'altro occupava anche tutto lo spazio disponibile nel vagone, neanche fosse un ministro, e il suo urlo, il continuo urlare in finto spagnolo. Bene, non si va così in vacanza, non si va in vacanza, basta con le urla, basta con le danze kuduro, era tanto che non la nominavo, basta con i tormentoni dell'estate. Il sound della vacanza per bene è questo. Ecco, se avete fatto una vacanza a tempo di minuetto, se sognate di farla con una certa dose di eleganza, 800 24 00 24, anche per raccontare le volte in cui avete subito questo tipo di vacanza, in cui la mamma vi ha costretto a mettere una certa canottiera piuttosto che un certo paio di sandaletti che voi non volevate indossare, oppure siete finiti in un albergo dove bisognava cambiarsi per la cena. Beh, beati voi, perché di solito succede di tutto poi negli alberghi, mi raccontano sempre, io non ne so nulla di tutto ciò. Esiste un pezzo musicale di qualche tempo fa che racconta di vacanze romane, ma vissute in maniera particolarmente sofisticata, possiamo anche dirlo, ed è questo. Vacanze romane. In realtà nel film Vacanze romane Audrey Hepburn faceva proprio il contrario, cioè fuggiva da una situazione troppo formale, troppo legnosa, troppo imbalsamata, per fare un po' così la pazza. Oh, come siamo pazzi! Vi ricordate il titolo di quella puntata in cui era ospite Marta Cagnola qui in studio? Oh, come siamo pazzi in vacanza. Bene, noi siamo stati troppo pazzi ultimamente, diciamoci la verità. Dal 68 in poi era obbligatorio essere pazzi, essere trasgressivi, essere contro, essere alternativi. Ma questo non solo nel 68, verso gli anni 90. Negli anni 90 c'era un film che io oggi detesto, sinceramente, proprio lo odio, vi dico la verità, lo odio, perché è stato preso un po' a modello di tutta quella ribellione tipica del periodo che veniva soprattutto dall'Inghilterra, poi dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna del Nord, soprattutto dalla Scozia. Pensate agli scrittori acidi scozzesi, oggi tutti scomparsi, naturalmente, chissà dove sono finiti. Il film si chiamava Trainspotting, ve lo ricorderete. Aveva un inizio molto particolare che è stato copiato mille volte nelle pubblicità. In questo inizio si raccontavano delle cose del tipo, mentre c'erano i ragazzi che correvano, ve lo ricordate benissimo, c'erano una voce dello speaker che diceva scegliete una vita di questo tipo, scegliete un mutuo, scegliete... Però poi questo pezzo è stato usato nelle pubblicità proprio per vendere le stesse cose che venivano stigmatizzate all'inizio di Trainspotting. Ebbene, adesso sentite l'originale di Trainspotting. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. No. Ecco qua, questi erano i drogatelli di Albione che correvano per le strade saltando sulle macchine mentre appunto fuggivano da tutto quello che era il perbenismo, la casa, il mutuo, il televisore. E ricordo sempre che poi questo stile è stato usato negli spot per vendere macchine, mutui e televisori. Bene, io ho fatto rifare tutta questa scena iniziale dedicandola alla mia località di elezione, Gatteo Mare. Ascoltate. Scegliete una vacanza, scegliete una località della Riviera Romagnola, scegliete Gatteo Mare. Scegliete una pensione familiare, scegliete un menù a base di pesce per mezzogiorno e una minestrina per la sera. Scegliete una sdraio al Lido Romagna Mia. Scegliete di non urlare in spiaggia. Scegliete le cartoline da mandare agli amici, i souvenir fatti di conchiglie, la rivista enigmistica che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Scegliete una passeggiata sul lungomare. Scegliete di andare a ballare il liscio. Ma perché dovrei fare una cosa così? Ma perché dovrei fare una cosa così? Si chiedeva il ragazzotto alla fine di quel lungo piano sequenza, mi sembra fosse. Adesso il film l'ho visto tanti anni fa, non me lo ricordo bene. Comunque era questa scena iniziale. Perché dovrei fare una cosa così? Bene, perché dovremmo fare le cose degli inglesi non lo so. La risposta alla domanda perché dovrei fare una cosa così relativamente a quello che avete sentito della vacanza Gatteo Spotting, chiamiamola così, ce la può dare una persona che a Gatteo Mare abita ed è molto operativa e attiva. Si chiama Massimo Bondi ed è presidente della cooperativa Sapri. Pronto? Buongiorno, sono in linea. Sì, Massimo Bondi. Allora, buongiorno. Senta, io in questa trasmissione ho spesso citato Gatteo Mare, invitando gli ascoltatori ad andarci invece di andare, che so, a Formentera in mezzo alla calca dei VIP. Adesso lei, che a Gatteo Mare è presidente di questa cooperativa e del Gatteo Mare Village, deve dirci perché dobbiamo venire in vacanza a Gatteo Mare. Beh, anzitutto perché noi ogni giorno facciamo qualche cosa per intrattenere i turisti che vengono nella nostra località. Abbiamo costituito il Gatteo Mare Village, che sarebbe associare tutti i bagnini, tutti gli albergatori, e ogni giorno facciamo una festa dalla mattina alla sera. Tra l'altro stavo dicendo prima di venire in linea che avremo anche la partita con la nazionale cantanti, e c'ho qui con me Moreno il Biondo, che così può approfittarne per salutare anche voi a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ma volentieri. Esatto, perché diciamo che il Gatteo Mare parte la mattina facendo le manifestazioni al mare dal stretching con i nostri animatori, e poi accompagna il turista fino alla sera alla piazza o diversi punti dove intratteniamo e facciamo divertire i turisti che hanno scelto la nostra località. Certo, signor Bondi, dobbiamo assolutamente sfatare una leggenda, ossia che Gatteo Mare è una località per pensionati. Non è vero. Ma chi l'ha detto? Ma sai, in giro si dice. Vicino a me una bambina che se la vedi tu, se ci sono solo i pensionati. Quindi è una località per tutti perché offrite, diciamo... No, è assolutamente vero, è da sfatare. Diciamo che il turismo di una certa età può essere la località... nel maggio, nel settembre, però la gioventù non è mai mancata e non sta mancando tuttora, anche abbiamo le spiagge piene e c'è l'intrattenimento per tutti quanti. Ah, quindi quest'anno la stagione sta andando bene? Molto bene, siamo molto contenti, c'è molto caldo e c'è un pienone ancora, si presume fino al 9 di settembre ancora con tanta gente e tanto sole. Ah beh, quindi hanno delle ottime previsioni. A proposito, com'è il tempo oggi lì a Gatteo? Il tempo è molto caldo, ci sono 37 gradi, quindi io sono qui fuori, così sento la macchina di amici che vi ascoltiamo fuori dallo stabilimento balneare, ed è un caldo atroce. Stiamo aspettando anche Paolo Mengoli, perché verrà al centro commerciale a fare la vendita della partita nazionale cantanti, che si svolgerà il 9 settembre qui sempre a Gatteo Mare, per dire che noi siamo operativi e facciamo tutto sempre per i nostri turisti che ci servono a venire nella nostra località. Quindi la partita è il 9 settembre. Con... 9 settembre con tutti la nazionale cantanti. Sì, non è una certo, la conosciamo. Ma contro chi? Contro di voi praticamente? Contro il Gatteo Mare Ville, bravo, dove ci saranno operatori, altri musicisti anche del liscio, perché tu sai che qui è la patria del liscio. Ma lo sappiamo benissimo, ecco, figuriamoci. Bravo, così mi piace. Infatti Moreno il Biondo, ex... e poi te lo voglio passare. Adesso ecco, mi passi Moreno il biondo, che lo salutiamo. Saluto anche a lui, che sono contento di che sentiate anche Moreno. Grazie intanto a Massimo Bondi, sentiamo se c'è Moreno il biondo. Pronto? Pronto. Ehi Moreno, come va? Ciao, tutto bene, qua andiamo liscio, quindi andiamo veramente forti. Poi tra l'altro l'Emilia Romagna è il cuore dell'Italia che batte, e Gatteomare è la sua anima, quindi noi ci siamo veramente in pieno. Quindi tu stai invitando tutti a venire a Gatteomare? Eh sì, perché veramente è come andare a New Orleans e sentire il Dixieland. Qui quando vieni a Gatteo c'è proprio il cuore. Qui c'è nato Casadei, secondo Casadei ha scritto Romagna Mia proprio in questo paese, quindi... Sì, abbiamo qualche giorno fa abbiamo anche intervistato la Riccarda, la figlia. Riccarda, certo. Allora, grazie a tutti, grazie, divertitevi a Gatteomare, siete stati molto gentili e torneremo ancora a parlarne. Grazie. Certo, io volevo dirti un'altra cosa. Che la finalità, logicamente, della Partita Nazionale dei Cantanti è benefica per due realtà del territorio nostro, che sono il Fracassi in Centro Accoglienza Anziani e il Don Ghinelli. E quindi il 9 di settembre... il 9 di settembre avevo veramente una grande realtà umanitaria e sportiva, e poi il 6 di settembre c'è il debutto ufficiale del progetto Emilia Romagna Mia, l'orchestra Bagutti, la mia orchestra, che è Moreno il Biondo, del grande evento in lungomare qua al bagno, vicino al bagno numero 3, vicino al Rubicone, un grande concerto, un grande spettacolo, Emilia Romagna Mia. Va bene, prendiamo nota di tutto, grazie intanto. Grazie a te. Ciao. Grazie. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che è così uguale a me, è un'altra possibilità. So che, come al solito, vi state chiedendo cosa c'entrano la Cruz con il liscio, con Gatteomare, ma no, non c'entrano niente, però questo pezzo, che è bellissimo fra l'altro, è così pompier, è così eccessivo, è così barocco, che pare di entrare appunto nella sala da pranzo di un grandissimo albergo, che poi sarebbe il sogno di tutti quelli che vogliono fare una vacanza per bene. Voi siete stati per caso in un grande albergo, proprio di quelli vecchio stile, tipo, non so, il Grand Hotel, come si chiamano, sì, Excelsior, Extra Lusso, 800240024, perché dovete raccontarmi veramente quello che avete fatto quella volta che avete voluto fare un po' i ricchi. Ma il vero ricco, sappiate, non spande mai, per usare un termine che non si dovrebbe usare, diciamo che non fa mai troppo sfoggio di quello che fa e non dice mai dove va in vacanza, come ci insegnano anche Cocchi e Renato in questa brevissima clip. Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova. Io a Genova ci vado quando mi pare, però non vado in giro a raccontarlo a tutti. Il segreto della zia, ovvero della signora Perbene, è quello di entrare anche nella modesta sala da pranzo della pensione Mariuccia pensando di essere a Vienna, alla corte dell'imperatore. Quindi lei dentro, mentalmente, voi, come fa lei, dovete pensare a questa musica, a risentirla. Lo so che purtroppo Kubrick ci ha rovinato e adesso quando sentiamo questo valzer vediamo gli astronavi. Però dimenticate Kubrick, torniamo al 1815, torniamo al congresso di Vienna e vi sentirete subito più eleganti. Siete mai stati al ballo delle debuttanti a Vienna? Penso di no, figuriamoci. Siete mica Rubi, lei sì, ci è andata, voi no, non potete andarci. 800 24 00 24, per raccontarmi quello che fate quando andate in vacanza, però facendo le persone per bene. Mi raccomando, persona per bene non vuol dire una persona noiosa, anzi, il vero idolo della zia, di questo che io chiamo la zia, di questo personaggio che io chiamo la zia, non è l'uomo noioso che sta a casa e dice questo si fa e questo non si fa. Il vero idolo della zia è lui. È ecco, James Bond deve essere il vostro modello. Vi ricordate quella scena in cui lui esce dall'acqua con la tuta da sommozzatore, da sub, poi la apre e sotto allo smoking? Dovete essere così quando andate in vacanza, non con i tatuaggi, i costumi, i sombreros, per carità, nulla di tutto ciò. Dovete sempre mantenere un certo tono, mi raccomando. Anche nella modesta sala da pranzo della pensione Mariuccia dovete cambiarvi e mettere lo smoking, uno smoking immaginario. Però l'importante è non urlare, perché quello è sempre il cruccio, è quello che vi allontana dal mondo del perbenismo. Intanto c'è Roberto, dalla provincia di Verona, che forse vuol dirmi qualcosa. Pronto? Pronto, ciao, sono Roberto. Ciao Roberto. Parlavi di vacanze in posti assolutamente incredibili. Io sono andato con mia moglie, mi ha portato all'hotel Excelsior di Levico, l'ex villa della principessa Sissi. Una roba. Ah, beh, già il nome. Dico, lì già il nome, poi Excelsior, poi la principessa Sissi. E cosa, esatto. Che ti è successo lì? Ah, molto semplice, guarda, io alla sera sono andato in sala da pranzo per mangiare, avevo le bermuda, era estate, avevo i sandali. Il capo sala, il capo cameriere mi ha guardato, mi ha fulminato. Avrei fatto lo stesso anch'io, comunque. Sì, non t'avrei è possibile. T'avrei fulminato, voglio dire, non sarei entrato in bermuda. Però che ne so. Allora l'ho guardato, l'ho anticipato e ho detto, ho capito, non si preoccupi, vado a mettermi i pantaloni lunghi. E per 3 giorni con mia moglie, una meva a vacanza, proprio bellissima, era uno scontato clamoroso, una super offerta, un last minute, perché altrimenti non sarebbe stato possibile. E ho dovuto andare con i pantaloni, comportarmi in maniera molto charmante, con gente che arrivava con macchinoni incredibili, una cosa molto ridicola di per sé, molto bella ma molto ridicola. Sì, perché ti sembra in quei casi, ti sembra di recitare. Invece questi qua non recitano, cioè quelli che arrivavano con i macchinoni si comportano sempre così. Normale. Sì, per loro è la normalità, siamo noi. Che... Assolutamente, cito un altro esempio, noi siamo arrivati, io ho un Opel Meriva, una macchina normale, avevo 2 trolley piccolini, il ragazzo, l'inserviente, insomma il personaggio che portava le valigie ci guarda e ci dice, solo queste? Solo queste? Solo questi, ci ho pensato a ridere perché effettivamente arrivavano BMW, SUV, con valigie enormi e noi abbiamo guardato e detto, beh sì, effettivamente abbiamo solo queste, per cui veramente essere trasportato in un ambiente assolutamente incredibile. Sì, ma vale la pena certe volte. Certo, ma dovevi rispondere, no, guardi, i bauli arrivano dopo con gli elefanti. Sì, perché assolutamente altrimenti... arrivano con Annibale. Grazie, ecco, Roberto. Qua. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Altra avventura, penso, da Franco, della provincia di Treviso. Pronto, Franco? Ciao, buonasera. Buonasera, anche tu sei stato in un ambiente perbenista di lusso? Sì. Allora anche a te serve la giusta base. Non per calcolo. Ah, per caso. Qualche anno fa sono andato, la prima volta che andai ad Istanbul, sì. La signorina che mi vendette il viaggio a un certo momento disse, mi propose di andare al Pera Palace. E che cos'è? Pera Palace è un hotel che è stato costruito per i viaggiatori dell'Oriente Express. Ah beh, allora già questo è dir tutto, dai, cosa c'era dentro? Sì. Damasco? Adesso, cosa è stato, c'era? Adesso è stato restaurato. Sì. Ma quando andai io c'era la camera, ci sarà ancora, di Atatürk, che è il padre della patria, per cui i turchi hanno un'autentica venerazione. Sì, certo. C'è la stanza di della principessa, della sì, no. Scusami? No, pensavo della principessa Sissi anche di là, perché sai, non avendo no, fare, la principessa Agatha Sissi. Christie. Ah, di Agatha Christie, sì. Agatha Christie, c'è un mistero sulla vita di Agatha Christie, perché per 10 giorni sparì. Ed è andata lì. E non si sa dove sia finita. Poi riapparve, ma non disse a nessuno dove era stata. Era stata a divertirsi nei bassi fondi di Istanbul, scusa. Cioè. Ah, probabilmente sì. Se non ne approfitta. E comunque ti sei trovato... è un hotel... fantastico. Ma tu eri vestito come il faux praticamente? Io ero vestito normalmente con i miei bravi jeans e la mia maglietta. Quando arrivai alla reception e vidi quell'accidente di hotel, guardai mia moglie e dissi, ma il conto l'abbiamo già pagato, perché qui se no non usciremo vivi. Sì, come, invece il conto era pagato perché c'era una convenzione con questa agenzia, per cui era un po' fuori stagione. Ecco, allora abbiamo visto che c'è convenzioni, last minute, offerte. Mi sa che in questi alberghi, Franco, non ci va nessuno, per cui pur di attirare clienti poi abbassano sempre i prezzi. Vabbè. Darsi, Tommaso, però io ti dico la verità, ho cercato di tornare ultimamente e l'hotel era pieno dal momento in cui andai a fare una ricerca in Inter, che mi pare fosse maggio, sì? Era pieno per i 4 mesi successivi, per cui credo che comunque c'è chi ci va. Con grosse disponibilità che lo riempie, ci siamo ancora. Beh, quelli non mancano mai. Grazie Franco. Intanto, ringraziandoti, ciao, voglio ricordare anche che la zia, o comunque la persona per bene, non va a letto alle 9. Anzi, la sera, come Agatha Christie, si diverte. La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. Le gemelle Kessler sono un po' il simbolo di questo mondo luccicante, notturno, anche un po' peccaminoso, ma non troppo, perché poi portavano la calzamaglia color carne, comunque una calzamaglia che nascondeva le gambe, per carità. Mai in TV queste cose. Giuseppe dalla provincia di Palermo, pronto? Buonasera. Giuseppe, non so quanti anni hai, ma... 50. E allora te le ricordi le Kessler? Me le ricordo. Nella versione censurata e nella versione Nature. quella Nature che ovviamente cominciò a sollecitare i primi istinti adolescenziali. Ecco, non approfondiamo e invece torniamo sulla tua esperienza in alberghi, sì, di lusso comunque. Guardi, io sono stato nella mia limitata esperienza una volta all'Hotel Plaza di Via del Corso, bellissimo, sì, come ambiente, tutto, dove peraltro c'era questo detto alla reception che raccontava aneddoti relativi a ospiti illustri o comunque potenti che erano transitati per quell'albergo. Anche la principessa Sissi? No, per fortuna. Ormai è un incubo. Qualcuno di molto meno affascinante di casa nostra. Tipo? Qualche nome, dai. Ma no, non vorrei essere tacciato di violazione della legge sulla privacy. Massima, figurati, ma non, chissà dove saranno. Andiamo? Sì. No. Uno era il ministro De Michelis. Meglio la principessa Sissi. Se mi avessero detto qua ha dormito il ministro De Michelis, me ne sarei andato. Avrei cambiato. No, ma l'aneddoto riguardava la circostanza riferita, ripeto, che non cambiasse mai le camicie, nel senso che le camicie le usava e le buttava. Allora ti dico anche un aneddoto. Sai chi è che fa una cosa del genere con la biancheria intima? Il noto cantante Gigi D'Alessio. Questo me l'ha raccontato perché ci ho lavorato con Gigi. Lui non porta, cioè non li riporta indietro come facciamo noi che le laviamo. No, li toglie e li butta. E loro possono. L'altra esperienza invece è molto più, diciamo, significativa, nel senso che ero andato al Grand Hotel San Donato Taormina, sì, anche qui un ambiente veramente particolare in cui si poteva tranquillamente scorrere con la mente nei secoli, sì, però abituato a ospiti ovviamente di un certo livello, di alto rango. Io ero andato per festeggiare il mio anniversario di nozze con mia moglie, non potevamo allontanarci molto. Eravamo andati due notti lì e siamo arrivati con la nostra allora modestissima Ford Fiesta. E ti hanno detto i fornitori dal retro? E guardi, ha indovinato. Ah, ecco, vedi. Ha indovinato. Me lo sentivo. Proprio. Ci hanno detto il parcheggio è sul retro, non è venuto nessuno a prendere le valigie. Le valigie. E quando poi siamo arrivati nella stanza che ci è stata assegnata, dietro c'era una barella che è rimasta lì praticamente per tutti i due giorni della nostra... Cioè una barella proprio di quelle d'ambulanza? Una barella d'ambulanza. Ma come mai? Non ne ho la più pallida idea. E peraltro con la coperta, diciamo, sul letto, con un buco di sigaretta... Ovviamente hai protestato quel periodo, eh? Hai protestato alla reception? No, io non ho protestato. Fra l'altro, guardi, le dico che all'inizio eravamo stati deliberatamente, cioè proprio trattati con una certa sufficienza, tranne fino al momento in cui poi esibimmo come dovuto i nostri documenti, da cui risultava il lavoro che facevamo io e mia moglie. E allora già lì cominciarono a cambiare un attimino atteggiamento. Non puoi non dirci cos'è però a questo punto. No, io infatti non lo dico. Come no? Cosa che a me indispettì ancora di più. Siccome in quel periodo mi baloccavo in recensioni di ristoranti e anche alberghi, feci una bella segnalazione alla guida Michelin, oltre che una lettera anche alla direzione allora dell'albergo, che si prodigò comunque in scuse, giustificandosi per il fatto che la titolarità dell'albergo non aveva anche la gestione dell'albergo. Eh beh, certo, poi ne trovano sempre una, sai, trovano sempre una scusa. Erano... Tuttavia, siccome per fortuna diciamo le ragioni delle vacanze superavano ampiamente il resto. Il resto, ok, tutto, Giuseppe, abbiamo goduto del tanto è bello che c'era tanto in uno che nell'altro. Giuseppe, incombe la borsa su di noi, quindi dobbiamo chiudere. Ti ringrazio tantissimo. Allora così controllo anche io i miei investimenti. La bella estate. Era forse il 1982-83, chi si ricorda più, quando c'era questa canzone, e c'era lui, questo personaggio gasivo, che si spacciava per un figlio di inglese, poi in realtà è vero, però si spacciava, non so, per qualcosa di molto chic, di molto sofisticato, fingeva di non parlare italiano nelle interviste e faceva questi video in questi ambienti, appunto tipo gli alberghi di cui stiamo parlando oggi. Anzi, se siete stati in un grande albergo e vi siete anche sentiti a disagio, 800 24 00 24. Poi Gasibo, un paio d'anni fa, fu ospite di un programmino che facevo sulla defunta All Music. Ebbene, tanto posso dirvelo, tanto non lavorerò più con nessuno ormai, si avventò sul buffet e mangiò questi panini con un comportamento non proprio, come posso dire, da grande albergo. Grazie, ciao Gasibo, se sei all'ascolto, 800 24 00 24. Ma prima di passare all'ascoltatore che sta aspettando dalla provincia di Reggio Emilia, voglio dirvi anche che la zia, quando si avvicina il momento di tornare a casa, non piange, perché in lei alberga, guarda caso, alberga un nobile sentimento, che è quello della nostalgia. Ha voglia di tornare a casa e nella sua testa risuona questa canzone. Oh mamma mia, mi sull'unta, ego la nostalgia. Io ti faccio licenziare, regista Mauro, io ti faccio licenziare. Volevo la versione originale, non questa del Presidente del Consiglio, per quanto canti bene, voglio quella originale di Alberto Rabagliati, grazie. Stasera son in vena de far sentimental. La notte in si serena, ma mi me senti mal, descrivi caramà. Ecco, gli ultimi giorni di vacanza, nella zia si muove qualcosa, il desiderio di tornare a casa, sente quindi la nostalgia di Milano, come la sentiva anche Silvio Berlusconi, che fra l'altro stava cantando a Milano, quindi che nostalgia senti, cose di maggio dell'anno scorso. Pronto Giulio? Pronto? Ciao, sei rimasto lì nonostante la canzoncina di Berlusconi? Sì, ho sentito anche Silvio, sono a posto per oggi. Per oggi basta, abbiamo già dato. Sì. Allora, invece, tu raccontami che cosa ti è successo. Sei stato in qualche albergo? Metà degli anni 90 ho dormito in un... Più che un albergo, era una specie di ostello, un albergo di una stella al massimo, dove negli anni 50 aveva soggiornato per parecchio tempo Ernesto Guevara. Ma scusa, dove eri? A Cuba? In Guatemala. Ah, in Guatemala, in Guatemala. Guatemala, sì. La Guatemala City. Ma è vero che ci aveva soggiornato poi il CE, no? Sì. Ah, ma è sicuro? Sicuro? Sì, sicuro. Ma eri nella stessa stanza? Ero nello stesso hotel, la stanza lì, non te lo so dire, c'erano le immagini del CE un po' ovunque, ma lui cambiava spesso perché rimaneva fuori lunghi periodi, poi in mezzo alla foresta, e poi rientrava sempre in questo posto. Più che un hotel, era un ostello proprio, sì, insomma, mi ricordo che allora spendevo $3 a dormire in questo posto. Beh, quindi il CE non è che potesse spendere tanto, non appunto, poteva permettersi appunto, tanto. Era, no, sì, allora spendevo, era proprio una specie di casa famiglia dove anche lui aveva soggiornato per lunghi periodi. Sì, ma la cosa, Giulio, la cosa ti ha emozionato oppure proprio non ti interessava? Io sono un cultore del CE, mi ha emozionato allora. Parecchio, allora. Non ci sono arrivato senza... senza farlo apposta. Cioè, ah, non lo, l'hai scoperto non, dopo? L'ho scoperto proprio quando ero lì. Beh, allora questo è un segno, scusa. Sì, questo qui è proprio un segno. Ma ci sei tornato? Vuoi tornarci? Ci sono già tornato un altro paio di volte, adesso lo stanno ristrutturando, stanno facendo un hotel non esagerato, ma una bella cosa stanno facendo. Aumenteranno i prezzi di sicuro, me lo sì, sento. Beh, sicuramente, li hanno già aumentati dai... Sono stato 20 anni fa, io e già 10 anni fa i prezzi erano già più che triplicati. Vabbè, cosa vuoi farci? Intanto comunque sei stato in un luogo quasi storico. Grazie sì, Giulio. Prego. Ciao, ciao. Ma di cosa parlano le zie quando si incontrano, che so, a prendere il tè nella hall dell'albergo, anzi della pensione Mariuccia in cui stanno trascorrendo le loro vacanze sulla riviera romagnola? Parlano di questo, parlano di quello che si sente in un film di qualche anno fa, che per me è il top del perbenismo. E il film si chiama Venga a prendere il caffè da noi, tratto da un romanzo di Piero Chiara che si chiama La spartizione. Viva il nuovo! Che gentile che è stato a venire. Sì. S'accomodi, le presento le mie sorelle. Fortunata, piacere. Alonzini, Veneziano. Camilla. Sì. Tarsilla ci ha detto quanto è stato cortese. È nelle mie abitudini. S'accomodi. Prego. Grazie mille. Oggi con le donne di servizio è un disastro. È vero. Bisognerebbe non avere bisogno di nessuno, mai. Abitare in albergo, in un residence, come faccio io. E i soldi, via. In Svizzera. Arpa. Strumento sublime. Chi la suona? Lei. Io sì. Complimenti. Grazie. Arpa, strumento sublime. È vero, anche se il Paronzini parlava un po' per luoghi comuni, infatti l'arpa non è uno strumento solo sublime, è uno strumento con cui si può fare di tutto. E adesso ce lo spiega una grande arpista, una grande musicista, che si chiama Floraleda Sacchi, che è al telefono con noi. Pronto, Floraleda? Buongiorno Tommaso, temevo che mi chiedessi in quali alberghi sono stata. Ma se vuoi puoi anche dircelo, se vuoi ce lo puoi anche dire. No, io purtroppo ho suonato in alberghi lussuosi, però trovo che sia molto interessante quando pagano loro per andare, per che io sia ospite da loro a suonare, non viceversa. Ah, beh, quindi come ospite pagata. Esatto, comunque no, sì. Floraleda, ti ho chiamato perché l'arpa, vabbè, prima di tutto perché io ti apprezzo tantissimo come musicista, sai che ti seguo ormai da anni, lo sai, e perché l'arpa è sempre visto come lo strumento per bene, ma... È proprio vero, in realtà con l'arpa tu hai fatto di tutto, hai fatto dalle compositrici al minimalismo, fai qualunque cosa con l'arpa. Ma ognuno ha la sua voce e quindi la usa per dire quello che vuole, la mia voce è l'arpa e quindi la mia anima magari non è così perbenista, così conservatrice o così etichettata sul romanticismo, quindi uso la voce per dire anche altro, insomma. Sì, appunto, stavamo ascoltando adesso in sottofondo prima uno dei tuoi brani, tra l'altro scaricabile anche gratuitamente dal tuo sito. Non è gratuitamente, ma è su iTunes e su un po' tutti i grossi distributori digitali e sul mio sito si può ascoltare alcune cose anche su YouTube. È un brano scritto per me, in realtà non è mio, ed è un progetto recente a cui sto lavorando alacremente, sì? Che sarà poi anche, questo in particolare che hai fatto ascoltare, che Buenos Aires Bajo Luvia è distribuito anche diciamo in CD stampato, dall'anno prossimo ce ne saranno anche altri, questa è una collana perché, attenzione, ho una mia etichetta discografica, si chiama Amadeus Arte, in cui ho creato questa serie di ritratti, ogni CD è un compositore, sì? Che è, con cui mi sono interfacciata in qualche modo, con cui ho collaborato, e quindi ciascun album ha un suo sapore, ha una sua storia ed è un mondo sonoro. E mi interessava molto creare questa cosa, un po' per far vedere quante sfaccettature può avere lo strumento, ma anche per ampliare il nostro repertorio. Insomma, diciamo che quello che fai scrivere oggi è quello che speriamo qualcosa resti, quindi potrà essere suonato domani. È un po' una responsabilità, io credo, del musicista. Beh, certo, non si può solo vivere di repertorio, bisogna creare sempre qualcosa di nuovo. Senti, Floraleda, ma come mai hai cominciato a suonare l'arpa? Tra tanti strumenti, tu da piccola hai detto voglio suonare l'arpa. Sì, purtroppo sì. Perché purtroppo? No, perché a me è venuto un infarto, però erano contenti. Diciamo che hanno detto, ma non è che ti piace qualcos'altro, un pianoforte, una chitarra, un'altra cosa? Io ho detto no, arpa. E questo l'ho fatto quando avevo 5 anni, quindi loro è da molti anni che soffrono, se non sono così vecchia, però hanno patito molto. E questa mia scelta, però, vabbè, è stato così. È stato un amore a prima vista, credo, perché avevo un disco di arpa a casa, l'ho visto in televisione. È stato proprio un amore a prima vista. Io non ricordo esattamente quale sia stato l'evento scatenante, però chiaramente un evento scatenante ci deve essere stato. Qualcosa è successo. Oltre all'arpa, c'è un altro elemento che io definisco perbenista che ti contraddistingue, ed è il lago. È le ho tutte, purtroppo. Sono anche tutte. Bionda con gli occhi chiari, un po' angelica d'arpa, ce le ho proprio tutte, è tutto contro di me, lo so. Ma tu sul lago fai qualcosa di particolare, organizzi un festival. Organizzo un festival che è proprio in corso in questi giorni, che penso che sia l'unico motivo buono per venire sul lago, perché in questi giorni c'è un calore e un'umidità che uccide. Anche lì. E quindi ovviamente l'unico motivo buono qual è? Venire al Lake Como Festival. Sì. No, è un festival, diciamo che il lago è, vabbè, da sempre un po' questo turismo appunto come quello che si descriveva prima, questi alberghi esclusivi eccetera, però purtroppo noi abbiamo anche una carenza diciamo di teatri o di sale preposte, quindi la mia idea è sempre stata quella un po' di utilizzare quello che c'è, d'altronde se uno vuole fare musica deve anche utilizzare gli spazi che sono a disposizione, e quindi utilizzo delle ville, delle fondazioni, insomma dei luoghi un po' desueti, che hanno però un grande fascino, e tendenzialmente scelgo dei luoghi che hanno anche un'ottima acustica, e quindi ripropongo degli organici piccoli, quindi un musicista, due musicisti, quest'anno in particolare sto suonando io un po' più del solito, però diciamo che riporto un ambiente familiare raccolto in cui ascoltare musica, un po' con il gusto di quella che era la vecchia cara house music, però c'è molto contemporaneo, ci sono anche delle cose assolutamente innovative, per cui l'ambiente non è così tradizionale come parrebbe. Infatti, quello che comunque tu stai dimostrando da anni anche con i tuoi dischi, per cui l'arpa viene svecchiata. Senti, c'è un ascoltatore molto spiritoso che mi manda un SMS che dice: una suonatrice di arpa si chiama arpia? No, si chiama arpista. Guarda che ascoltatore che mi merito. Che gente che no, mi scrive. Sai, dipende dal momento poi. Come dal momento? Perché alle volte diventi un'arpia, no? Ma può anche essere, non so. Allora fermiamoci qua prima che la situazione degeneri. Flora Leda, grazie. Grazie a te. A presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, mi spiace interrompere questo momento così idilliaco di Flora Leda che suona l'arpa. Se andate sulla pagina Facebook della Bella Estate, poi troverete anche l'indirizzo del sito di Flora Leda, perché è un personaggio veramente da seguire, molto interessante, e vi fa scoprire degli universi inaspettati per chi ama la musica, naturalmente. Ma torniamo al comportamento della zia, che poi potrebbe essere anche quello della mamma, ovvero bisogna comportarsi bene, vestirsi in un certo modo e soprattutto mettersi la canottiera. Allora, questo consiglio di mettiti la canottiera lo do a Mauro De Angeli, che oggi ci lascia perché va in vacanza. Eh sì, adesso che te ne vai in vacanza, mettiti la canottiera, non prendermi freddo, mi raccomando. Invece resta con noi Viola Bottoni, o vai via anche tu in vacanza? No, forse anche lei mi lascia qui da solo, abbandonato, non so cosa sarà di me e soprattutto non so cosa sarà di voi. No, lo so, lunedì vi aspetto una puntata dal titolo Benvenuti al Bates Motel, parleremo di quanto avete speso in vacanza. Ormai siamo all'ultima settimana prossima, e quindi tireremo un po' le somme di quello che è stata l'estate. Quindi divertitevi nel weekend, arriveranno i temporali, rinfrescatevi, ci sentiamo lunedì. Ciao!